sette non c'è un anno, non è male come gaba. Caso mi salda, mi rami, no, wala, sai, ma che sai, un gaba. Che già ride di sotto, è il suo capo di niente. Ma è anche il mio segreto, prima. Io ma ti chiamo, ma ci chiamo. You're my treasure. 우리 절대 어쩌면 더 쉽지 않게 있어줄래. 우리 끊긴 했던